campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 13 novembre, il sole in regione è sorto alle 6.57 e tramonterà alle 16.51. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Il corso di laurea di viticoltura ed enologia dell'Università di Udine compie 30 anni. Nel servizio di apertura la sua carta d'identità e le sorti dei suoi studenti. A seguire le storie del professor Angelo Floramo, che oggi ci raccontano dell'epopea dell'oca, pennuto che in questi giorni ha le sue feste tradizionali. Energie alternative con relativi contributi regionali nella rubrica delle normative, mentre in quella della frutticoltura le risposte alla domanda «Perché una volta gli alberi da frutta non si ammalavano?» Come si stappa correttamente una bottiglia di vino, tutte le raccomandazioni e i trucchi nello spazio dei sommelier, mentre in quella dei fiori, focus su una pianta che fiorisce in questo periodo, la calluna. Andamento dei mercati agrari, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. È uno dei fiori all'occhiello della formazione accademica della nostra regione. Stiamo parlando del corso di viticoltura ed enologia dell'Università di Udine, un corso che proprio in questi giorni compie i suoi primi 30 anni. La carta d'identità ce la dà Lucilla Iacumin, coordinatore del corso. Nasce in seguito alla legge 129 del 91, quando viene stabilito, viene sancito che anche la formazione dell'enologo deve essere una formazione di tipo universitario. A questo punto, grazie alla visione di alcuni docenti del corso di laurea, dei corsi di laurea di agraria e tecnologia alimentare allora già presenti, si decide di innovare diciamo, l'offerta formativa e di garantire una formazione anche a livello universitario proprio a Udine. Udine perché sappiamo bene che la regione ha una forte connotazione vitivinicola, quindi anche la formazione poteva essere un aiuto importante per la crescita delle stesse cantine della nostra regione. Cosa dà in più del classico diploma? Diciamo che a imparare non si finisce mai, no? Per cui la formazione universitaria dovrebbe formare una mente critica rispetto a una formazione didascalica con la quale si esce dalla formazione superiore. Quindi con la formazione universitaria la differenza dovrebbe essere che l'enologo dovrebbe riuscire a rispondere alle esigenze del mercato, alle esigenze della produzione, con uno spirito molto più critico e con un approccio di tipo diverso rispetto a quello della formazione che dà il diploma. Abbiamo parlato di territorio. Da dove arrivano i vostri studenti? Solo dal Friuli Venezia Giulia? No, assolutamente. L'Università di Udine, l'Ateneo Friulano, è un ateneo riconosciuto a livello nazionale e internazionale, tant'è che fra i corsi di laurea dell'Ateneo è quello che forse ha un maggior richiamo da parte di studenti di altre regioni che arrivano non solo dal vicino Veneto ma da tutta Italia. Negli anni abbiamo avuto da un 50 a un 70% di studenti da fuori regione, da tutta Italia, e anche dall'estero. Abbiamo avuto picchi anche fino al 7% di studenti provenienti dall'estero. Un laureato al vostro corso trova subito lavoro? Sì, sono laureati che riescono, anche grazie al tipo di formazione che diamo, che dove sono inseriti dei tirocini formativi obbligatori, quindi cerchiamo in qualche modo di mettere subito a contatto con la realtà produttiva i nostri studenti, e forse anche grazie a questo fatto gli studenti sono in una buona percentuale già occupati prima di laurearsi. Per quanto riguarda la formazione triennale, circa il 70% dei laureati è poi occupato entro un anno dalla laurea. Per quanto riguarda la formazione poi magistrale, quella quindi ancora superiore alla laurea triennale, in questo caso il picco arriva al 90%. Vanno tutti nelle cantine di casa o prendono le vie del mondo? No, i nostri studenti diventano testimonial, possiamo dire, del Friuli in tutto il mondo. Abbiamo studenti che lavorano ai quattro cantoni del mondo, dal Canada agli Stati Uniti, al Sud America, alla Nuova Zelanda, all'Australia. Diciamo che dovunque ci sia viticoltura, un laureato di Udine è sicuramente presente in quell'area. E per celebrare questi primi 30 anni, sabato 19 alle 9.30 nell'aula Strassoldo di via Tommadini dell'Università ci sarà un evento con i massimi esperti di enologia e viticoltura d'Europa, perlomeno d'Europa. Le storie di Angelo Floramo oggi ci raccontano come nell'incedere dell'anno anche un animale umile come l'oca avesse i suoi giorni di gloria. Per tutto il mese di ottobre fino alla festa di San Martino, l'11 di novembre, le oche venivano tenute nelle stie o entro i perimetri dell'aia. Gli animali erano sottoposti ad un ingrassamento forzato, crudele, spesso macinando direttamente in gola i semi del gran turco, oppure predisponendo appositi pastoni in cui la farina veniva mescolata al siero del formaggio. Anche questo rappresentava una sorta di ritualità, il cui scopo ultimo era quello di incrementare a dismisura lo strato di grasso animale, utilizzato dopo la macellazione come condimento, ma anche utilissimo per conservare il cibo durante i mesi estivi, quando la riserva alimentare del camarin, la cantinetta, in cui venivano appese a stagionare le carni del maiale, era ormai quasi del tutto esaurita. Se il fegato, una vera prelibatezza, doveva essere consumato subito perché deperibile, la carne, cotta, affumicata oppure salata, veniva tagliata a pezzi e quindi immersa nel grasso fuso dentro vasi di coccio o di vetro. Macinata e insaccata, permetteva di preparare bocconcini saporiti che si potevano gustare anche durante le vigilie e in tempi in cui la Chiesa prescriveva il magro, perché si trattava pur sempre di carne bianca, che anche le numerose comunità ebraiche presenti in terra di patriarcato potevano assumere. Occhie e blave sono da sempre state risorse intimamente connesse nell'economia della campagna. Le famiglie dei contadini versavano al plevan, il pievano, sacchi di mais per assolvere al dovere della decima, che veniva riscossa tradizionalmente alla fine dei contratti agrari, e dunque proprio nel giorno di San Martino. Non è un caso che il cibo tradizionale di questo giorno fosse proprio l'oca. Secondo la leggenda, Martino, riluttante a diventare vescovo, si era nascosto in una stalla piena di questi bianchi pennuti. Il rumore prodotto dal loro potente starnazzare avrebbe però rivelato il suo nascondiglio. È usanza antica in Friuli preparare il dolce di San Martino, che si consuma in cene a base di piatti particolari, quali carne arrostita e castagne. Il sugo, tratto dalle carni dell'oca, inoltre intride generosamente il piatto degli gnocchi di patate, pietanza che arricchisce la mensa della festa nei giorni dedicati alla celebrazione degli antenati. In queste contrade vengono comunemente chiamati macarons. Il nome, per gli eruditi del Settecento, deriverebbe dal greco makarios, ovvero felice, beato, dal momento che la loro bontà è tale che chiunque li assaggi assurge a tale condizione. La programmazione comunitaria 2014-2022 si sta concludendo e la Regione si appresta a spendere le ultime risorse disponibili del PSR. Assieme a Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo le ultime novità. Sì, la Giunta regionale ha recentemente approvato il nuovo bando dell'intervento 641, sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili, con l'obiettivo di contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni. L'intervento è aperto alle aziende agricole e alle micro e piccole imprese di utilizzazione boschive e finanzia l'acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la realizzazione di strutture e opere accessorie alla produzione, conservazione e distribuzione della stessa. Parliamo quindi di impianti fotovoltaici, a biogas, idroelettrici, nei quali l'energia prodotta non può superare 1 MW di potenza, ridotti a 0,3 MW per i biodigestori. Nel caso della cogenerazione deve essere garantito l'utilizzo di almeno il 50% dell'energia termica. Contrariamente a quanto previsto dai bandi del PNRR, qui la condizione essenziale è che l'energia prodotta sia destinata alla vendita in rete e non si limiti al mero autoconsumo. È un regime di aiuto interessante per le imprese questo? Direi di sì, nella generalità dei casi l'intensità di contributo è pari al 35% della spesa ammissibile, è elevabile al 45% nelle zone montane e al 50% per le imprese condotte da giovani o in regime biologico. Siccome l'intervento non riguarda la produzione primaria in senso stretto, rientra tra gli aiuti di Stato e più precisamente il contributo è concesso in regime de minimis, con un limite massimo per singola azienda che non può eccedere il plafond dei 200.000 euro negli ultimi 3 esercizi finanziari, compreso quello di concessione. Attualmente il bando ha una dotazione di 785.000 euro, cifra che appare inadeguata considerando il costo medio degli impianti che si prefigge di incentivare, e tuttavia è verosimile che il capitolo sarà integrato con fondi derivanti da economie realizzate su altre misure dello sviluppo rurale. Termini per la presentazione delle domande? Le domande devono essere presentate entro il 6 febbraio 2023 in modalità telematica con firma digitale, corredate dalla documentazione tecnica prevista dal bando. Attenzione che, oltre alla consueta terna di preventivi raccolta tramite le apposite funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, il SIAN, è necessario disporre di un progetto esecutivo degli impianti redatto da un tecnico abilitato e già depositato presso le autorità competenti per l'ottenimento delle eventuali concessioni, nonché di un computo metrico e del relativo cronoprogramma delle opere. È vero che le piante da frutto una volta non si ammalavano? A questo interrogativo tenta oggi di dare risposta il professor Raffaele Testolin nella sua rubrica di frutticoltura. Ci sono due aspetti da considerare. Il primo riguarda il fatto che una volta non eravamo così esigenti per quanto riguarda la frutta. Oggi la frutta deve essere bella e perfetta. Guai se c'è un neo creato da un insetto o una macchia dovuta ad un fungo. Una volta, dobbiamo ammetterlo, eravamo più di bocca buona, soprattutto con la frutta che producevamo da noi in orto. Non vedevamo difetti nelle nostre pesche o nelle nostre pere, anche perché, come dicono saggiamente gli amici napoletani, ogni scarafone è bello a mamma sua. Il secondo aspetto riguarda la storia dell'agricoltura dell'ultimo dopoguerra. L'industria chimica ha messo a disposizione degli agricoltori i pesticidi di sintesi. Dai oggi, dai domani, siamo arrivati in poco più di 50 anni ad utilizzare ogni anno fino a 3 milioni di tonnellate di prodotti chimici per la difesa delle colture agrarie nel mondo. Parliamo di principi attivi perché, se consideriamo i barattoli commerciali di prodotto, il valore potrebbe salire a oltre 10 milioni di tonnellate l'anno. E poiché molti di questi prodotti, soprattutto quelli più vecchi, non erano selettivi, oltre ai parassiti della frutta abbiamo distrutto anche i loro antagonisti, i predatori e tutte quelle specie del variegato mondo biologico che gira attorno alle piante e che, se mantenuto in equilibrio, impedisce alle specie più dannose di proliferare. Quanto detto per gli insetti vale anche per le malattie fungine. Ora stiamo tornando indietro. Il consumo di pesticidi diminuisce ogni anno e cominciamo a capire che il mondo biologico è complesso ed è fatto di specie, insetti, funghi, batteri, virus che interagiscono tra di loro in un delicato equilibrio. Rotto l'equilibrio, esplodono le popolazioni che si trovano prive di antagonisti e predatori. In questo momento, purtroppo, stiamo ancora pagando prezzi elevati alla rottura degli equilibri naturali. E tornando all'argomento della puntata, difendere le colture è molto più difficile di una volta, quando i prodotti per la difesa erano pochi e venivano usati con molta più moderazione. Per concludere, le piante da frutto non sono più delicate oggi rispetto ad una volta, solamente hanno molti più nemici di un tempo e non hanno alleati. Voglio concludere con un consiglio per gli amici che coltivano il frutteto come me e non fanno i frutticoltori di professione. Trattate il meno possibile con pesticidi e accettate qualche macchiolina nella frutta e qualche mela con il verme. Vedrete che con gli anni le piante saranno sempre più sane o resilienti, come si dice oggi. Nella rubrica dei sommelier oggi Vladimiro Tulisso ci dà un'interessante serie di istruzioni per la stappatura corretta delle bottiglie di vino. Stappare una bottiglia può apparire un'operazione banale. In realtà non è così se l'intento è quello di rispettare il vino. E per rispettarlo non bisogna maltrattare la bottiglia, che dunque va mossa il meno possibile. Per liberarci del tappo di sughero è comodo usare il cavatappi chiamato spagnolo, quello dotato di una spirale da infilare al centro del tappo e fornito di una leva che aiuta ad estrarlo. Prima di infilare il verme, così viene chiamata la spirale, è necessario tagliare la capsula e per farlo il cavatappi spagnolo è provvisto anche di un coltellino affondato nel manico e che si estrae all'occorrenza. Tenendo la bottiglia appoggiata su un piano e ben dritta, si avvita la spirale per tre quarti della sua lunghezza, evitando così di passare il tappo da parte a parte, perché questo potrebbe creare dei frammenti di sughero che finirebbero nel vino. Una volta avvitato, usando la leva ed esercitando un piccolo sforzo, il tappo uscirà. Il gesto va eseguito lentamente, sempre avendo presente la necessità di non scuotere la bottiglia. Può capitare, specie con le bottiglie più longeve, che il tappo si spezzi. Non c'è molto da fare. Si dovrà cercare di eliminare tutti gli eventuali frammenti di sughero, poi spingere nella bottiglia la parte rimasta e decantare il vino, cioè trasferirlo dalla bottiglia a un secondo recipiente che può essere una caraffa o un decanter. La decantazione, che è il nome di questa operazione, non è quasi mai necessaria con i vini che non abbiano almeno una decina d'anni di maturazione. Un bicchiere adatto, di solito sufficientemente ampio, permette da solo un'adeguata ossigenazione, mentre stappare la bottiglia ore prima, senza scaraffarla, serve a poco perché la superficie del vino, che è solo quella del collo, un paio di centimetri, è troppo piccola per farlo respirare. La decantazione diventa opportuna invece quando si pensa che la bottiglia possa avere dei depositi. I sommelier fanno dell'operazione quasi un rito che prevede anche l'accensione di una candela. È più comoda, diciamolo, la torcia del telefonino, così da seguire lo scorrere del vino dalla bottiglia al decanter. A un certo punto si vedrà il liquido perdere limpidezza e sarà questo il segnale per fermarsi. Alessandro Squizzato, per la rubrica dei fiori, oggi ci parlerà della Calluna vulgaris, altrimenti conosciuta anche come brugo. È una pianta erbacea arbustiva sempreverde, a crescita lenta. Fa parte della famiglia delle ericacee. Le foglie sono aghiformi, di verde intenso, e i fiori piccoli, che sono numerosissimi, possono essere bianchi, rosa, rossi, da agosto a novembre. La pianta è diffusa in Europa, anche in Italia. Dopo l'acquisto è importante rinvasarla al più presto in un vaso oppure in cassette, in ciotole e in combinazione con altre piante, molto bella assieme a viole e ciclamini. Utilizziamo del terriccio per piante acidofile, che è indispensabile per le sue esigenze vitali. Spesso viene utilizzata come pianta annuale, ma se volete, invece, potete coltivarla tutto l'anno. Il rinvaso andrà ripetuto periodicamente in primavera, ogni volta che le radici avranno riempito il contenitore. Non è necessaria la potatura. In primavera è sufficiente tagliare alla base eventuali rami completamente secchi e fiori appassiti. Richiede annaffiature moderate, ma il terriccio non deve essere mai del tutto asciutto. Svuotate il sottovaso dall'acqua non assorbita dopo 15 minuti, perché i ristagni potrebbero far marcire le radici. La concimazione va fatta ogni 10-12 giorni, con un concime per piante acidofile, in autunno, periodo appunto in cui la pianta è in fioritura, andando a diminuire la frequenza con l'arrivo dell'inverno. Richiede un livello di luminosità elevato, solo in autunno e in inverno, ma in estate è consigliabile porla in una zona d'ombra. È una pianta che non teme il gelo. In casa però ha vita breve. Il suo ambiente ideale è il balcone o il giardino, al riparo dal vento però, che asciuga il terriccio troppo rapidamente. Il nome Calluna è derivato dal termine greco kallos, che vuol dire bello, bellezza. Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 34,30 e 34,60 euro al quintale, IVA esclusa. Il frumento tra 35,90 e 36,40, l'orzo, peso specifico, 62,65, tra 31,10 e 31,60, e la soia tra 59,30 e 59,80. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 7,60 euro il quintale e la soia è diminuita di 50 centesimi. Scarse contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in ribasso, soprattutto per le verdure. L'insalata Gentile e lattuga Trocadero vengono quotate tra 0,90 e 1 euro il chilo, IVA esclusa, le zucchine tra 1,80 e 2 euro, le melanzane tonde tra 1,30 e 1,40, i peperoni gialli e rossi italiani tra 2,20 e 2,40, la scalola riccia tra 2,60 e 2,80, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso tra 1,30 e 1,50, le pere Williams tra 2,30, i cachi tra 1,80 e 2,20, l'uva tra 1,80 e 2 euro, le clementine estere tra 1,80 e 2 euro, le arance italiane, navel, con foglia estera tra 1,30 e 1,50 e le castagne tra 3 e 3,30. Prezzi stabili invece nel settore dei foraggi, con buone richieste del mercato. Il fieno Mangengo di pianure viene quotato tra 18 e 20 euro il quintale, IVA esclusa. L'erba medica di prima qualità tra 34 e 35 e la paglia di cereali pressata tra 13 e 15 euro il quintale. Infine, scambi attivi con prezzi in aumento nel settore degli avicunicoli. Il valore dei poliaterra varia tra 1,60 e 1,62 euro il chilo, IVA esclusa. Le anatre da 3,66 a 3,70, i tacchini maschi tra 2,17 e 2,19, quelle tacchine femmine e faraone tra 3,70 e 3,80, i conigli oltre 2,5 kg da 3,06 a 3,12, le uova oltre i 73 grammi provenienti direttamente a terra sono a 22,20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA, Livio Stefanutto, diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Una piccola depressione con aria fredda in quota si sta spostando dalla Grecia verso l'Italia e risalendo la penisola giungerà lunedì sulla regione. Nel frattempo fa fluire in quota correnti orientali a tratti secchi e a tratti più umide. Nella prossima notte saranno probabili delle precipitazioni diffuse, con nevicate oltre 1500 metri circa, in genere deboli o al più moderate. Sulla costa e sul mare sarà possibile forse anche qualche rovescio. In giornata rimarranno possibili precipitazioni sparse, alternate a delle schiarite. Martedì continueranno ad affluire correnti umide da sud, per cui, su tutta la regione, avremo cielo variabile o nuvoloso, con nuvolosità più consistente nella seconda parte della giornata, sulla fascia orientale e sulle prealpi, dove sarà possibile anche qualche piovigine o qualche debole pioggia sparsa. Nelle ore centrali, invece, avremo un po' più di sole sulle zone occidentali di pianura e costa. Lunedì e martedì le temperature massime resteranno sui 15-16 gradi. Mercoledì giungerà un fronte atlantico che porterà cielo coperto con piogge da moderata ad abbondanti, specie sulla costa e sulle zone orientali. Sulla costa soffrirà vento da sud moderato, mentre lo zero termico tornerà a salire oltre 2200 metri. Per tutta la prima parte della settimana le temperature massime resteranno sui 15-16 gradi circa. Giovedì rimarranno correnti umide occidentali, che manterranno una residua nuvolosità sulla regione. Venerdì giungerà un altro fronte atlantico che porterà cielo coperto, altre piogge, anche intense, e vento inizialmente di scirocco sulla costa e poi di tramontana. Le temperature minime in pianura scenderanno fino a 4-5 gradi, mentre le massime non supereranno i 14-15. In seguito una saccatura atlantica entrerà sul Mediterraneo occidentale e sul Tirreno si formerà una depressione, che richiamerà buona sostenuta per qualche giorno sulla regione. Come sempre vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. L'istadelle di San Martin dopo tre dis e pove fin, ovvero la piccola estate di San Martino dopo tre giorni può aver fine. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.